Salvadanaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salvadanaio da Deborah Rosciani, ben ritrovati alla nostra trasmissione. Anche oggi ritorniamo a parlare del nostro denaro, dei nostri soldi e del nostro rapporto con la banca soprattutto. Perché? Perché ieri si è svolta a Roma, di fronte al gotha bancario del paese, l'assemblea annuale dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. Tanti i temi all'ordine del giorno, accomunati però da un'esigenza comune, quella di adottare nuove regole per ricostruire un'economia che anche nel nostro paese è molto provata dagli strascichi della crisi finanziaria globale. Trasparenza e rapporto banca-cliente, anche questo uno dei temi al centro degli interventi, quello particolarmente del governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, che è stato sottolineato da tutti i giornali di oggi. In particolar modo il Sole 24 Ore si sofferma su quello che sarebbe stato un cambio di tono del governatore nei confronti delle banche, alle quali si è rivolto tornando a chiedere di velocizzare il credito alle imprese, di continuare a sostenere l'economia in questa fase. Poi ho tornato con alcuni affondi su un altro tema molto caro agli ascoltatori di Salvadanaio, il tema della commissione di massimo scoperto. Ve lo avevo chiesto all'inizio del 2007, toglietela questa commissione, questo balzello non è difendibile sul piano della trasparenza e dell'efficienza. E allora noi oggi riascolteremo alcuni passaggi dell'intervento di ieri di Mario Draghi, ma torneremo soprattutto a parlare del vostro rapporto con la vostra banca. Qual è oggi la situazione? Ritenete di potervi definire dei clienti soddisfatti o meno? So che questa è totalmente una provocazione nei vostri confronti, ma magari raccontateci se avete trovato qualche cambiamento negli ultimi anni, perché poi tanti cambiamenti ci sono stati, anche se i cambiamenti in senso positivo da parte del mondo bancario avvengono sempre perché il sistema è pungolato dal mondo politico, dal mondo legislativo, non tanto dal mercato e dalla concorrenza. Sono tutti temi di cui discuteremo questa mattina. Intanto con la professoressa Federica Jelasi, docente presso la Facoltà di Economia degli Intermediari Finanziari all'Università di Parma e presso la SDA Bocconi. Professoressa Jelasi, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere intervenuta a Salvadanaio. Peraltro l'Università di Parma, abbiamo spesso interpellato e disturbato per Salvadanaio altri docenti, molto attiva nelle iniziative di educazione finanziaria nei confronti dei consumatori, e sappiamo quanto ce ne sia bisogno per migliorare anche la nostra capacità di trattativa con il nostro intermediario finanziario, se si tratta di scegliere un prodotto di investimento risparmio, ma con la banca banalmente anche se si tratta di scegliere ed individuare il più semplice dei conti correnti. Il professor Claudio De Vecchio, ordinario di strategia e politica aziendale alla Cattolica di Milano. Professor De Vecchi, buongiorno. Buongiorno a lei e agli altri. È anche direttore scientifico di ASAM, l'Associazione per gli Studi Aziendali e Manageriali dell'Università Cattolica. Magari faremo anche un commento su questo filone che viene molto battuto in questo momento, il credito alle imprese che manca, e soprattutto anche magari cercheremo di capire come ci si deve porre come piccolo imprenditore nei confronti della banca, anche in questo caso per attivare una trattativa che sia utile per tutti, per il cliente soprattutto. Poi alle 12.30 ovviamente non possiamo non sentire il mondo bancario, ci collegheremo con Massimo Roccia, direttore centrale dell'ABI, anche segretario del consorzio Patti Chiari. Però soprattutto noi vorremmo essere stimolati dalle vostre testimonianze, dalle vostre domande, dai vostri commenti. 800 24 00 24 è il numero verde che avete come sempre a disposizione. Ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Un'occhiata al mercato azionario questa mattina: le cose stanno andando piuttosto bene. Non dobbiamo però brindare più di tanto, perché siamo reduci da 5 giornate consecutive di ribasso per i listini del vecchio continente, anche per Wall Street, che ieri sera ha accennato ad un piccolo rialzo, mentre è un po' più consistente quello che si registra stamattina sui mercati del vecchio continente. Parigi più 1,12, Francoforte più 1,48, Londra un po' più modesta, guadagna lo 0,67%, mentre è un po' più tonica Milano, che guadagna l'1,71%. D'altronde ieri Piazza Affari si è guadagnata il premio della peggior piazza d'Europa, ha perso il 2%, per cui oggi riesce a recuperare un po' di più. Il mercato oggi guarda ad alcuni fattori positivi, come per esempio alla trimestrale del produttore americano d'alluminio Alcoa, un gigante del settore ed è sempre la prima società a rassegnare la prima trimestrale del trimestre. Per quello che riguarda le società americane, il secondo trimestre dell'anno per Alcoa si è chiuso in rosso, ma in un rosso meno profondo delle attese degli analisti, per cui il mercato guarda con favore a questa notizia. I prezzi del petrolio, $61 al barile dopo essere scivolati al di sotto e soprattutto dopo aver accusato un forte scivolone ieri sul mercato americano a causa del forte rialzo degli stock di greggio negli Stati Uniti, per l'appunto. Piazza Affari, un'occhiata ai migliori titoli stamattina: STM più 3,43, Pirelli più 3,22%, abbiamo un po' tutti il settore bancario che rimbalza dopo la forte debolezza degli ultimi giorni, e Unicredit più 3 punti, abbiamo anche un rialzo di 3 punti per Tenaris, Fondiaria più 2,72, il Banco Popolare che guadagna il 2,7%, Mediolanum più 2,7%, Saipem più 2,64%, Fiat in rialzo di 2,5 punti con Intesa San Paolo, più 2 anche per Prismian, Enel e CIR. In discesa invece Parmalat, lo è da questa mattina, adesso peggiora un po', perde 1 punto, in calo UbiBanca dello 0,11%, per cui per la verità il settore bancario non va esattamente tutto nella stessa direzione stamattina. Autogrill meno 0,09%, e poi abbiamo titoli che sono un po' deboli, insomma non sono in rosso ma sono quelli che guadagnano meno: Lottomatica più 0,07%, Bulgari più 0,07%, euro su dollaro a 1,39,72. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di questa mattina. Allora, come vi ripeto, grazie anche ai vostri contributi, vorremmo ritornare a parlare del tema che chissà quante volte abbiamo perso il conto, abbiamo affrontato a Salvadanaio: il tema del rapporto fra banca e cliente. E lo spunto in questo caso è arrivato dall'assemblea annuale dell'ABI, l'associazione delle banche italiane, che si è svolta ieri a Roma. Si è parlato poco, per la verità, di consumatori retail, di piccoli consumatori, di piccoli clienti bancari. In questo momento l'attenzione, come sapete, è fondamentalmente rivolta allo stato di salute delle imprese. C'è stata la presentazione di questa iniziativa di Tremonti, di cui avremo modo di parlare nelle prossime settimane, di questa moratoria sui debiti delle imprese. Per quello che riguarda invece il piccolo cliente, il retail, ci sono state delle indicazioni del governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, che naturalmente ha detto dobbiamo forzare di più nel rapporto banca-cliente in termini di trasparenza, ed è intervenuto di nuovo sul tema della commissione di Bastimo scoperto. Draghi ha detto molto chiaramente: le banche devono risolvere la questione alla radice una volta per tutte. Io vi faccio sentire prima di tutti questo contributo del governatore, poi inizieremo la nostra chiacchierata con i nostri interlocutori. Veniamo alla questione del massimo scoperto. Sollevai la questione di questa commissione già all'inizio del 2007. Invitavo le banche a superare un istituto poco difendibile sul piano della trasparenza e dell'efficienza. Il legislatore dava alla Banca d'Italia solo il potere di verificare che queste clausole, per quanto non buone, venissero però applicate con trasparenza, non di sostituirle con forme contrattuali diverse. La ripetuta azione di moral suasion sortiva però effetti soltanto nei confronti dei maggiori gruppi. Necessario è stato quindi l'intervento d'imperio del legislatore, anche se è auspicabile un riordino delle varie disposizioni in materia di rapporti tra banca e cliente, riordino previsto peraltro nella legge comunitaria da poco approvata dal Parlamento. Ora le banche, specialmente quelle di media e piccola dimensione, devono risolvere la questione alla radice. Sostituiscano spontaneamente, una volta per tutte, le commissioni complesse, opache, con commissioni ragionevoli, perché non è possibile uscire con commissioni del 4, commitment fees del 4% in un periodo come questo, con commissioni ragionevoli sui fondi messi a disposizione. Per il resto si riconduca tutto all'applicazione trasparente dei tassi di interesse. E allora io comincerei con la professoressa Federica Jelasi, Università di Parma, ESDA Bocconi. Quella di ieri non era esattamente la sede per tornare a sollevare la questione dei costi dei conti correnti, perché oggi forse, alla luce del credit crunch nei confronti delle imprese, appare quasi un problema secondario nel rapporto banca-cliente, visto che le urgenze negli ultimi mesi appunto si sono ricondotte tutte al credito, al mutuo, quando parliamo di cliente retail ha la necessità di rinegoziare i finanziamenti in corso per l'acquisto della casa, e però in realtà, guardare bene, forse il problema del conto corrente è tutt'altro che secondario se lo riconduciamo alla questione della commissione di massimo scoperto. Se un conto corrente ha un fido collegato, naturalmente allora sì che diventa di nuovo, come dire, una delle priorità da tenere in considerazione in questo momento. L'Università di Parma è molto attiva sul fronte delle ricerche e delle analisi su questi temi, anche sugli aspetti dell'educazione finanziaria, come ho detto prima. Il tema del pricing, del costo del conto corrente, dottoressa Jelasi, quanto rappresenta in questo momento la preoccupazione per i clienti bancari? Sì, alcune verifiche empiriche che abbiamo svolto di recente presso la nostra università hanno evidenziato come esistono ancora delle differenze molto significative nel livello e nella struttura di pricing dei conti correnti. Sia tra banca e banca, ma anche tra conto e conto all'interno della stessa banca. Questo sì, spesso può condurre il consumatore a qualche incertezza, qualche perplessità sulle diversità dei costi che vengono applicati sui diversi servizi. Oggi infatti i conti tradizionali trovano sempre una maggiore diffusione, conti a pacchetto, conti che presentano delle condizioni differenziate a seconda del canale distributivo, del segmento di clientela, della modalità di utilizzo del prodotto. E quindi alcune verifiche che abbiamo fatto anche utilizzando i dati ABI, dati Patti Chiari, hanno evidenziato come i conti correnti offerti a specifici segmenti di clientela presentino oggi un costo medio annuo sintetizzato nel cosiddetto indicatore sintetico di costo molto differenziato ma è anche molto alto, perché probabilmente lei se lo ricorderà, qualche anno fa il tema del costo del conto corrente era il grande cavallo di battaglia di tutti i giornali economico-finanziari, anche del nostro, quando c'erano state le famose rilevazioni di Capgemini che decretavano come il costo del conto corrente applicato appunto dalle banche italiane come in assoluto il più alto d'Europa. Poi per cominciare a scendere, insomma, se n'è fatta un po' di strada, sono intervenuti tanti provvedimenti legislativi, anche la concorrenza, però di fatto rimangono ancora più alti, dottoressa Jelasi. Sì, come è stato ricordato anche ieri durante l'assemblea ABI, di strada ne è stata fatta. Il conto corrente negli ultimi 5 anni in media ha fatto registrare una riduzione di prezzo di oltre il 30%. Se poi si prendono in considerazione prodotti offerti sui canali diversi dallo sportello bancario, la riduzione di prezzo è ancora più significativa, arriva al 60%. Mm-hmm. È però non corretto fare valutazioni generaliste, perché esistono conti correnti molto differenziati ed è bene quindi che il consumatore, quando deve aprire un conto corrente, scelga attentamente quello più adatto alle proprie esigenze. I conti correnti non sono tutti uguali, non offrono tutti gli stessi servizi. È fondamentale che il consumatore verifichi quali servizi intende utilizzare, quali bisogni intende soddisfare e scelga quindi il prodotto più adatto ai certo quante sono le operazioni che mediamente in ogni mese devono essere fatte, se poi ci sono le bollette che vengono pagate automaticamente, se c'è un mutuo allegato. Ci sono tanti aspetti da considerare, non trascuriamoli, perché poi naturalmente anche dal conto corrente può arrivare tutta un'altra serie di rapporti con la banca. Dobbiamo essere capaci di dialogare su tutto, e quindi partiamo anche dal primo rapporto, che è quello proprio della tenuta del conto corrente. Allora, io sono un po' indecisa se sentire, chiedo ancora un minutino di pazienza al professor De Vecchi, però vorrei sentire un ascoltatore, Claudio da Novara, visto che l'abbiamo citata, questa benedetta commissione di massimo scoperto. Sentiamo la sua considerazione, Claudio, che poi gira al professor De Vecchi. Claudio. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, senta, io una settimana fa ho ricevuto da una banca una comunicazione, io sono cliente Banca Intesa. Sì. Ecco. Che sostituiva la famosa commissione massimo scoperto con un contributo per lo scoperto del conto. Sì. Pari a 2 euro giornaliere per lo scoperto del conto. Quindi, lei ha un conto, perché questo è fondamentale, Claudio, ha un conto con un fido aperto, no, contestuale? Non ho un fido, quindi è in assenza di banca, fido. Esatto, la banca, logicamente, se dovesse arrivare un assegno di 10 euro, vado 10 euro sotto, la banca mi fa sconfinare lo stesso. Certo. Anche nel momento del fine. Però a quel punto mi applica 2 euro al giorno. Quindi avete 10 euro sotto nel conto o 1000 euro sotto nel conto, io pago sempre 2 euro al giorno, con un massimo di 100 euro, questa sì. è la condizione della lettera. Sì. Ma 2 euro al giorno sono, cioè su 10 euro sono il 20%. Lo so. Allora Claudio, probabilmente lei si è perso qualche nostra trasmissione dedicata a questo argomento, però ci ritorniamo volentieri, perché in realtà noi così, con questa licenza giornalistica, spieghiamo la situazione in questa maniera. Abolito questo balzello per legge, le banche l'hanno fatto uscendo dalla porta rientrare dalla finestra. Le banche invece sostengono che hanno dovuto rimodulare queste commissioni, perché naturalmente per concedere uno scoperto di conto al cliente non è che poi non possano farsi pagare niente. Professor De Vecchi, vengo subito a lei, le chiedo allora un commento su questa situazione, nei confronti della quale ieri il governatore Draghi è stato piuttosto chiaro, con un colpo finale, come lo descrive Orazio Carabini stamattina sul Sole 24 Ore. Sulla commissione di massimo scoperto è voluto intervenire di nuovo. Io ve lo avevo detto, ve lo dico da tempo, dal 2007, non è un balzello difendibile sul piano della trasparenza e dell'efficienza. Questa rimodulazione condotta dalle banche in questa fase, dalla quale poi chiederemo conto anche a Massimo Roccia, come la giudica? Trasparente o no? Ma infatti ha già risposto Federica, che saluto. Ah bene, vi conoscete anche, non lo sapevo. Nel suo intervento precedente, devo dire che questa iniziativa è un'iniziativa che deve avere innanzitutto una verifica empirica, cioè concretamente come avviene, perché giustamente le parole di Claudio erano: ma io fino a 100 euro posso andare, se sono 2 euro il 20% mi sembra che sia un importo particolarmente oneroso. Se poi consideriamo che uno dei fenomeni più diffusi è anche quello della multibancabilità, quindi vuol dire che il signor Guglielmo Bianchi può avere 5-6 conti correnti per motivi suoi, il problema del monitoraggio di questi conti correnti diventa un elemento chiave. Allora, quando il governatore raccomanda queste migliorie, bisogna poi essere anche molto concreti e capire quali sono nella pratica queste migliorie. Banalmente, se mettessimo degli allarmi, ad esempio un sms al cliente, un'email, nella quale gli si fa capire che sta arrivando a una soglia critica, io ho l'impressione che questo sarebbe un servizio che con pochissimi, magari centesimi all'anno, dato il numero di milioni e milioni di correntisti, potrebbe subito iscrivere un più tra gli elementi di trasparenza, chiarezza e utilità. Non so se rendo l'idea. Sì, sì, infatti. Quindi, insomma, una sorta di allarme, piuttosto che far scoprire magari dopo un trimestre ad un cliente, esatto, che ha strapagato per aver sconfinato il conto, come può spesso cadere, solo perché magari banalmente lo stipendio viene accreditato per errore o per un disguido con un giorno di ritardo, insomma, farglielo sapere subito. Beh, insomma, le migliorie sono tante. Poi magari le suggeriamo a Massimo Roccia dell'ABI, che tra un po' ci raggiunge al telefono. C'è anche un altro ascoltatore, io però adesso devo dare la linea al GR Extra Large per le anticipazioni per l'edizione delle 13. C'è un interessante intervento di un ascoltatore, Eros, sa perché la faccio intervenire dopo in modo tale che la possa sentire anche il rappresentante dell'ABI, perché sennò pensano sempre che facciamo queste grandi battaglie contro le banche, che siamo sempre molto abili nello sparare loro contro, ma poi non le difendiamo mai quando si comportano bene. Qualche volta, non ci crederete mai, capita. Eccoci ancora a Salvadanaio, un Salvadanaio che oggi ha ripreso spunto dalla relazione del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, tenuta ieri all'assemblea annuale dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Si è rifatto il punto sullo stato di salute delle aziende che avrebbero bisogno di maggior credito, quindi nuovi moniti da questo punto di vista, e poi naturalmente si è parlato anche di trasparenza nel rapporto fra banca e cliente. Allora, prima di continuare la conversazione con i nostri ascoltatori e con i nostri ospiti, vi faccio sentire anche cosa ha detto il governatore a proposito delle nuove disposizioni, della nuova disciplina di trasparenza dei servizi bancari, una disciplina che dopo aver avviato una consultazione pubblica dovrebbe entrare presto in vigore. Sentiamolo. La crisi rafforza la necessità di continuare nell'azione per migliorare gli standard di correttezza e trasparenza nei rapporti col pubblico. per dirimere in tempi rapidi le controversie tra gli intermediari e i clienti, per promuovere un uso più consapevole degli strumenti finanziari da parte di risparmiatori e investitori. La fiducia nella clientela è il perno di stabilità del sistema finanziario. La nuova disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia si è profondamente evoluta rispetto al passato. Vuole che il cliente disponga di informazioni semplici da capire, utili a valutare la convenienza delle operazioni che gli vengono proposte, la correttezza di chi gliele propone, richiede agli intermediari di adottare procedure interne che assicurino comportamenti corretti. Le osservazioni ricevute durante la consultazione pubblica su queste proposte, consultazione conclusasi in maggio, hanno confermato la validità dell'impianto della riforma, le cui disposizioni verranno emanate entro questo mese. Complementare alla giustizia civile, il nuovo sistema per risolvere le controversie in materia di servizi bancari e finanziari, l'arbitro bancario e finanziario, consentirà ai clienti di ottenere decisioni imparziali in modo rapido e poco costoso. Saranno istituiti 3 collegi, uno per il nord, uno per il centro, uno per il mezzogiorno. I clienti delle banche vi si potranno rivolgere anche tramite le filiali della Banca d'Italia, che assicurerà le strutture tecniche per il funzionamento dell'arbitro. Avete sentito anche l'altro annuncio di Draghi, ne avevamo già parzialmente parlato, anche se molto rapidamente, nelle ultime settimane a Salvadanaio, avremo presto questo arbitro bancario finanziario. Professor De Vecchi, volevo chiedere a lei un commento sulla nuova disciplina di trasparenza che la Banca d'Italia è pronta a varare. Insomma, ancora il tema è quello della comunicazione verso il cliente, che deve essere stringata, stringente, chiara, decisa, precisa, pochi fronzoli nella comunicazione. Questo è l'obiettivo di questa nuova normativa, a suo avviso? Pare di sì, almeno nelle buone intenzioni è così. Anche la figura di questo arbitro bancario finanziario in teoria dovrebbe funzionare bene, poi noi dobbiamo sempre fare un'azione di monitoraggio sullo svolgimento concreto, perché il processo è una delle cose più importanti. Come si svolgono queste cose fanno capire se c'è stata da una parte qualcuno che ha voluto, come il nostro governatore, illuminare una situazione, dall'altra se c'è qualcuno che cerca di spegnere la lampadina, insomma. Però in questo caso bisognerebbe dire che anche il cliente deve un pochettino crescere da un punto di vista culturale, per essere onesti, perché è vero che le banche devono dare informazioni semplici, utili, con quella correttezza di chi li propone, i comportamenti corretti, dice così il nostro governatore. Però dall'altra parte dobbiamo avere anche qualcheduno che ha perfettamente capito queste cose e cerca di mettere in pratica una comunicazione verso la banca che sia altrettanto utile e tempestiva. Questi sono gli elementi importanti. Le faccio un esempio: siamo sempre più sollecitati da dei artigiani che fanno commistione, quindi che fanno confusione tra il portafoglio familiare e il portafoglio dell'attività commerciale. Questo alla banca non piace, perché non riesce a capire come sta andando da un lato il business dell'artigiano e dall'altro come sta andando la dinamica monetaria, quindi l'evoluzione delle entrate e delle uscite della famiglia. Cercare di tenere distinte queste cose è un primo passo per avvicinare le esigenze da un lato della banca e dall'altro del cliente. A mio avviso bisogna fare tutte e due un piccolo sforzo, allora quelle che sono le desiderata del nostro governatore si realizzano in concreto. Allora, Massimo Roccia, direttore centrale dell'ABI, buongiorno. Oi. Eccoci qua. Allora, non ha potuto sentire la prima parte della nostra trasmissione, ma abbiamo ascoltato quanto ha detto Draghi ieri sulla commissione di massimo scoperto. Lei era lì, quindi avrà sentito senz'altro. E poi l'ultima parte del governatore è questa che abbiamo sentito poco fa, quella relativa alla nuova disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari. Quindi questo è quanto abbiamo avuto modo di analizzare nella prima parte della nostra trasmissione. Prima di la volevo interpellare sulla faccenda della commissione di massimo scoperto, perché anche se ne avevamo già parlato a Salvadanaio, un ascoltatore ci ha raccontato, ci ha fatto la sua testimonianza, ci ha reso la sua testimonianza relativamente al fatto che, pur non avendo un conto affidato, gli è arrivata la comunicazione da parte della banca che gli ha spiegato che, in sostanza, per qualora sconfinasse dal suo conto, gli viene applicata una commissione per scoperto di conto. Gliela leggo testualmente, perché è quella che applica in questo momento Intesa San Paolo, per cui il tema è capire la vecchia commissione di massimo scoperto cosa è diventata adesso e soprattutto verso cosa potrebbe ancora ulteriormente tendere nei termini della nuova razionalizzazione chiesta dal governatore Draghi. Però prima Eros dalla provincia di Rimini. Eros. Deborah, buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie molte. Io ho sentito l'intervento del governatore anche ieri sera nella trasmissione di Sebastiano Barisoni. Sì. Credo che abbia perfettamente centrato l'obiettivo e trovo giusto anche l'intervento del suo ospite, dell'esperto che c'era prima. Un piccolo sforzo dobbiamo farlo anche noi. Io non sono più un ragazzo, ho 49 anni, ho tentennato per molto tempo, ci gioca anche un po' la pigrizia. Quando poi ho deciso di fare il grande cambiamento, dopo più di 20 anni di fedeltà alla stessa banca, oggi mi trovo che tutte le qualità che dovrebbe avere la banca, che il governatore ha snocciolato, io nella mia banca telematica le trovo tutte. Mm-hmm. Trovo la correttezza, trovo la trasparenza, trovo la semplicità e trovo tutto sommato un modello di comunicazione che già da molti anni, io ho lavorato per diversi anni nelle società multinazionali, i miei colleghi del nord Europa avevano già negli anni 90. Quindi non mi pare che si sia scoperta l'acqua calda, bastava copiare. Io oggi mi trovo, adesso forse non è neanche corretto che faccia i nomi o se vuole. Ma non è un problema, ci mancherebbe, Eros. Cioè... Io sono stato 22 anni cliente di quella che oggi si chiama Banca Intesa, che è quella che ha il 20%, il 21% di proprietà della Banca d'Italia, quindi non era proprio una banchettina di provincia. E oggi sono cliente di una società, di una banca telematica, si chiama IV Bank. Sì. Io sono un piccolissimo, microscopico, insignificante correntista, ho fatto un salto di qualità veramente, veramente elevato. Certo, perché... questo però, sì, Eros, no, la ringrazio molto, abbiamo capito i termini, il tema è che lei è passato davvero al canale che ha più dato, come dire, una spinta alla concorrenza nel nostro paese, proprio nei termini di abbattimenti anche dei costi di tenuta del conto corrente. Il canale online è chiaramente la modalità più semplice, per più sbrigativa, per risparmiare, per dirla in termini appunto molto, molto banali. Massimo Roccia, il tema di chi deve fare di più per avere un rapporto ottimale con la banca. Chiaramente noi siamo sempre pronti a dare addosso alla banca, però anche noi possiamo fare qualcosa. Io so che gliela offro su un piatto d'argento dal punto di vista bancario, poi però sul massimo scoperto ci andiamo. Rispetto alle considerazioni espresse da Draghi ieri e anche rispetto a questa nuova disciplina di trasparenza che dovrebbe arrivare, che novità saranno? Allora, sulla trasparenza noi siamo molto orgogliosi che la riforma recepisca molti degli strumenti che già l'industria attraverso l'autoregolamentazione di Pattigliari aveva inserito, in particolare i profili di consumo, e cioè ogni cliente potrà attraverso il sito che è quello di Pattigliari ma anche nell'interazione con la banca capire qual è il suo profilo di consumo annuale del conto corrente e quindi sapere a che categoria, diciamo, appartiene e scegliere con maggiore facilità tra prodotti tutti adatti per quel profilo di consumo, ovvero numero di operazioni, tipologia di operazioni e canale preferito dal cliente. La seconda novità riguarda il famoso ISC, cioè l'indicatore sintetico di costo dei conti correnti, con un solo numero, anche questo già introdotto da noi 2 anni fa e riportato adesso a disciplina generale dalla nuova normativa di Banca d'Italia, con un solo numero, ripeto, capire il costo annuale del conto corrente per profilo, accelerando di molto la capacità e l'efficacia del confronto tra una banca e l'altra. Quindi avremo un numero sintetico che dice quanto costa per quel profilo un prodotto. La terza novità è la scheda informativa sintetica, cioè una raccolta dentro un solo foglio, quindi sottolineo una sola pagina, di tutte le principali condizioni che fanno praticamente il 99% del prezzo del prodotto, affinché il cliente non si disperda in contratti con fogli informativi troppo lunghi, ma abbia sinteticamente tutte le principali voci che portano al 99%. Non le facciamo però a carattere microscopico, Roccia, perché sono state fatte non già è che facciamo modulo... tre pagine concentrate in una che poi non si capisce. È una cosa sintetica a circa 25 righe, quindi chi se ne intende sa che in 25 righe di un foglio viene un carattere abbastanza grande e si può capire velocemente le componenti di costo oltre che il costo complessivo. Quarta novità è l'estratto conto facile, cioè il cliente riceverà, oltre all'estratto conto normale che riporta la lista dei movimenti effettuati nell'anno ai fini della validazione da parte del cliente dei movimenti, forse vale la pena ripeterlo, le banche operano sempre sul mandato del cliente e il cliente alla fine, quando vi è il riepilogo, valida le operazioni di incasso e pagamento fatto dalla banca sul mandato del cliente. Ecco, ci sarà una piccola tabellina veramente schematica, che riporta la componente economica del conto corrente, cioè quali operazioni sono state fatte e quanto esse sono costate al cliente, riportando anche una cosa importante per noi a fini di comparazione, che è il costo del conto corrente nell'anno precedente. Quindi il cliente saprà quanto gli è costato il conto corrente a questo punto sul profilo effettivo di consumo dell'anno e quanto era costato l'anno precedente. Quando dovrà essere a regime tutto questo? Questo lo faremo nei primi mesi del prossimo anno. Quindi all'inizio del 2010. Esatto, e le banche stanno adesso attendendo, dopo le specifiche che avevamo dato come autoregolamentazione, anche le norme definitive che comunque arriveranno, come detto, dal governatore prima dell'estate, e poi potranno fare le modifiche ai sistemi informativi che consentiranno di produrre questo. L'ultima novità... Me la deve dire dopo i suggerimenti per chi è in viaggio, perché siamo molto in ritardo, mi scusi, solamente un minuto. Ultima parte di Salva Danaio, rapporto banca-cliente, dopo le indicazioni emerse dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi ieri all'assemblea dell'ABI, il direttore centrale dell'ABI Massimo Roccia. L'ultima novità in arrivo in termini di nuova disciplina di trasparenza dei servizi bancari? Roccia. Delle guide semplici per la clientela che indicano con un linguaggio comprensibile in forma sintetica i principali passi per utilizzare nel modo migliore i prodotti e anche per cambiare da una banca all'altra. Allora, torno invece velocemente all'altra domanda fatta credo dal nostro telespettatore, e cioè dello sforzo e del vantaggio della banca, dei canali telematici. Oggi in Italia il 93% delle banche offrono i canali telematici di rapporto con i clienti e 13 milioni di clienti hanno dei conti online. Questo mi sembra molto importante. Nell'ultimo anno 3/4 dei clienti hanno usato canali a distanza. Questo significa usare bene le tecnologie e portarsi a casa un vantaggio enorme che è dell'ordine del 60% per esempio sui conti correnti. Infatti il problema è che però molte volte per poter gestire al meglio magari proprio la piccola attività professionale del rapporto diretto con la banca c'è assolutamente bisogno, e credo che la sfera problematica e che in questo momento viene guardata con grande attenzione sia proprio quella. Roberto da Bologna, ex dirigente bancario. Roberto? Ciao Deborah, sì, ciao Deborah. Buongiorno. Buongiorno, io sono appena andato in pensione ed ero il responsabile proprio di una rete di vendita retail di una banca di una certa importanza. Ma il mio commento è, senza voler sputare assolutamente nel piatto fino a dove ho mangiato bene ieri. E che l'ha anche pensionata bene probabilmente, Roberto. Sto scherzando. Discretamente. Ecco. No, il discorso è molto semplice. Sono state fatte tante parole, alcune giuste, alcune che mi hanno fatto onestamente sorridere, anche da parte dell'ABI e da parte di Banca d'Italia, che fino all'altro ieri sono state alla finestra a guardare cose. Mi ricordo le ispezioni di Banca d'Italia che su queste cose qui non ci hanno mai assolutamente guardato. Le banche sulle commissioni di massimo scoperto ci hanno chiuso dei bilanci sopra, ovviamente sul retail, perché chiaramente il rapporto con le aziende è sempre stato un rapporto estremamente negoziale sulla commissione di massimo scoperto, perché ci guardavano e ci guardavano in maniera dura su una commissione che era estremamente complicato comprendere sulla sua applicazione. Il cliente retail invece Molto meno potere negoziale, certo. Prima deve potere. Comprendere come funziona, anche come funzionava la vecchia applicazione, certo. Adesso invece deve barcamenarsi in questa nuova rimodulazione. Roberto, io ho capito perfettamente il senso del suo messaggio. È difficilissimo che le banche possano rinunciare a questa fonte fondamentale di ricavo per il proprio bilancio, per cui adesso che è arrivata questa rimodulazione, tendere verso l'eliminazione totale sarà un po' difficile. Massimo Roccia, cosa replichiamo, Roberto? Ma qui ci sono due aspetti che vanno tenuti nettamente distinti. Il primo riguarda la trasparenza e il secondo riguarda la determinazione per via amministrativa dei prezzi. Sulla trasparenza abbiamo sempre aderito all'idea di una formulazione che fosse più comprensibile ai clienti. D'altra parte, anche negli altri mercati mondiali esistono delle commissioni a fronte della messa a disposizione dei fondi, cosiddette commitment fee, e quindi noi siamo assolutamente favorevoli che esse siano trasparenti, confrontabili da parte dei clienti e soprattutto, come detto, negoziabili. Tanti clienti infatti non la pagano, dipende dallo standing e dal complesso dei rapporti che il cliente ha con la banca. Sulla determinazione di un cap per via di legge non siamo d'accordo, crediamo che in questo caso, come ha pienamente riferito ieri il Presidente, si poteva aspettare che la legge emanata facesse il suo corso e che quindi i clienti, ricevendo la comunicazione della nuova formulazione, della nuova tariffazione, decidessero loro quale era la strada migliore rispetto alla loro specifica situazione. Invece è intervenuto un provvedimento che ha messo un cap dello 0,50% sull'importo, esatto, dell'affidamento come commissione. Che a voi non sta bene. Beh, le banche pensano che l'industria finanziaria retail sia un mercato in concorrenza e che quindi i prezzi li faccia il mercato, visto che esiste la possibilità di cambiare da una banca all'altra. Comunque rispettiamo sempre la legge e le banche si adegueranno alle formule che il legislatore ha imposto, ma quello che va detto è che la liquidità costa a tutti quanti. Se le imprese clienti, soprattutto le piccole, non detengono grosse quote di liquidità propria, è proprio perché la liquidità costa e quindi purtroppo anche quando le banche la comprano sui mercati internazionali, la tengono a disposizione dei clienti, questo c'è un costo che credo sia giusto sia remunerato. Io tra l'altro mi scuso con la professoressa Jelasi, che ho sentito nella prima parte, poi ho un po' trascurato nell'ultima parte appunto della nostra trasmissione. Le volevo leggere, dottoressa Jelasi, una mail che ci è arrivato da un ascoltatore, Michele da Bergamo. Questa mattina ci ha scritto: ho fatto due bonifici negli Stati Uniti allo stesso creditore, però con due banche diverse. Una mi ha fatto pagare una commissione di 10 euro, l'altra, forse lui ne ha cercata un'altra perché 10 euro gli sembravano tanti, beh, l'altra gli ha applicato una commissione di quasi 60 euro, 57,70. Ma magari in termini molto semplici, come dovrebbe funzionare un'operazione di bonifico bancario verso l'estero? Le commissioni per operazioni, come dire, transfrontaliere, dottoressa Jelasi, è un costo ragionevole? Lei così che impressione ha? Ma come dicevamo prima, in effetti esistono differenze significative tra le singole banche nel livello, nella struttura dei prezzi anche dei singoli servizi di pagamento, e il prezzo che viene applicato ad uno specifico servizio è comunque da commisurare al resto dei servizi che vengono offerti magari nel pacchetto. Proposta alla clientela. Ritorniamo qui sul tema della trasparenza, sulla necessità anche di chiarire in anticipo quelle che sono. Esatto, infatti magari se l'avesse saputo prima avrebbe bloccato il bonifico l'ascoltatore, certo. A mio avviso, in generale, oltre ad una trasparenza sui costi, sicuramente irrinunciabile, esiste anche un'esigenza di trasparenza sui contenuti dei servizi offerti, sui vantaggi dei servizi in termini di tempi, di modalità di erogazione. Qualche tempo fa ho partecipato ad alcuni focus group organizzati dal professor Monari, che avevano l'obiettivo di definire insieme ai consumatori il contenuto e la struttura del pricing di nuovi conti correnti a pacchetto. Bene, data l'esperienza è emerso come i consumatori risultano in effetti anche disposti a sostenere costi, certo, unitari più elevati a fronte di ovviamente di comunicazioni chiare allo sportello, ma anche se si usa il canale online. Dottor Roccia, lascio concludere lei, ci mancano pochissimi secondi, poi saluterò anche il professor Claudio De Vecchi che ci ha fatto compagnia in questa prima parte. Insomma, una commissione da 57 euro per fare un bonifico quando un'altra banca aveva applicato una commissione da 10 euro. Ma sicuramente 57 euro forse sono una cifra alta, anche se andando in giro per l'Europa voi scoprite che tutte le operazioni disposte per cassa allo sportello hanno dei costi proibitivi. In Inghilterra, facendo un confronto l'anno scorso, abbiamo visto che il minimo dei bonifici per cassa allo sportello era 19 sterline. Il vero punto è riuscire a dare delle informazioni semplici e veloci ai clienti e dall'altra parte dedicare un attimo di attenzione per poter confrontare. E magari prima di farle le operazioni. Quanto mi costa questo? Devo fare un bonifico negli Stati Uniti? Quanto devo sostenere, insomma, come onere per fare questa operazione? L'ho chiuso brutalmente, dottor Roccia, perché ho terminato il tempo a disposizione. Sono anche fuori di 30 secondi, come al solito. I miei colleghi mi ammazzeranno prima o poi. Grazie. Grazie a Massimo Roccia, Claudio De Vecchi e Federica Jelasi per essere stati con noi. Ma questo tema, lo sapete, lo frequentiamo spesso. Ci ritorneremo al più presto. Buona giornata a tutti.